9 in punto, la versione di Oscar. Ascoltatori, buon giovedì 30 di settembre. La decisione che abbiamo preso ieri, visto l'esito del voto in Parlamento, è stato quello di non infliggervi un'altra analisi politica su quello che è successo o non successo. Si vedrà, i numeri parlano da soli, il PDL non è più autosufficiente con la Lega, si vedrà. Invece abbiamo deciso di approfondire un tema che Il Sole in questi giorni ha trattato dedicando aperture e pezzi importanti di approfondimento. Poi negli altri quotidiani ho visto che La Stampa è stato l'unico a non trattarlo nelle pagine economiche. Tutti gli altri, secondo me, lo hanno un po' sottovalutato. Di che cosa si tratta? Si tratta delle nuove norme sul patto di stabilità europeo, di cui nei giorni passati si è aperto il confronto all'interno della Commissione. La Commissione ieri ha formalizzato la sua proposta, che ora passerà all'esame dell'Ecofin informale. E su queste nuove regole del patto di stabilità europea, che sono un pochino i bulloni da stringere intorno al nuovo quadro di controlli che verranno effettuati su ciascun paese membro, non solo sui saldi come si faceva nel programma di stabilità annuale, ma su due impostazioni di documenti, su l'impostazione di finanza pubblica, ma dall'altro anche sul piano nazionale annuale di riforme. E la domanda è, a questo punto, visto il nuovo debito pubblico aggiuntivo per affrontare la crisi di molti paesi, che li fanno avvicinare a medie di debito pubblico italiano, quali criteri nuovi adottare? Da una parte per confrontare, oltre al debito pubblico, il totale dei debiti che abbiamo appreso in questa crisi essere significativo come indicatore a cui guardano i mercati per misurare la fiducia, l'affidabilità, la solvibilità di un paese. L'Italia in questo si batte, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, perché il debito delle famiglie italiane, più basso rispetto alla media degli altri paesi, venga inglobato nelle quantità a cui guarda, oltre che al debito pubblico, la Commissione europea. Ma la questione era di fondo: oltre a far scattare depositi infruttiferi per una certa percentuale del PIL per tutti i paesi che superano il 3% del deficit l'anno, quella dell'automaticità o meno delle sanzioni aggiuntive col deposito infruttifero, con l'eventuale blocco dei fondi europei, se queste sanzioni dovessero essere automatiche o discrezionali. Il Sole 24 Ore in questi giorni ha spiegato il blocco di paesi intorno a cui si è formata il nuovo braccio di ferro, diciamo così, l'ennesimo dopo la crisi dell'eurodebito. Diciamo che la Germania è naturalmente alla testa del fronte dei rigoristi e delle sanzioni più rigorose, da una parte, e dall'altra automatiche. L'Italia e la Francia sono invece nel blocco di paesi che invocano, in nome dell'autonomia e della discrezionalità della politica, in nome della necessità di evitare patti troppo stringenti se automatici e quindi con effetti deflazionistici, invocano la non automaticità. E ora, naturalmente, dopo il varo che vi è stato ieri in sede di commissione, si tratta di capire quali davvero saranno le sanzioni che passano, quanto saranno automatiche. E la domanda che pongo io anche è se non fosse conveniente per l'Italia stare con i rigoristi e stare con i tedeschi. La mia opinione netta è sì. Noi abbiamo un track record di debito pubblico e di deficit di spesa pubblica solo 3 volte nel dopoguerra. L'ammontare reale della spesa pubblica ha avuto uno stop in 3 soli anni, in tutto il secondo dopoguerra. Alla luce di questo sappiamo che il miracolo abbiamo saputo farlo solo quando c'era un vincolo estero. Io credo che noi avremo bisogno sia di sanzioni automatiche europee, tanto valeva battersi con i rigoristi per questo, sia di cose alla tedesca, c'è un vincolo in Costituzione alla spesa pubblica, al deficit e al prelievo. Ma queste sono le mie opinioni e contano poco. L'essenziale è capire come mai in Italia ci sia poca attenzione a questa nuova set di regole e soprattutto non ci sia dibattito sul fatto se l'Italia convenga davvero stare tra il partito della discrezionalità politica. Allora sentiamo subito i nostri ospiti e ci abbiamo innanzitutto Adriana Cerretelli, che in questi giorni ha fatto il più del lavoro di approfondimento sulle colonne del Sole 24 Ore. Buongiorno e grazie a lei come sempre. Buongiorno Adriana. Buongiorno. E Tobias Piller, che è il mio partner ideale tutte le volte che si tratta di spiegare a voi che i tedeschi rigorosi sono buoni e fanno anche gli interessi, non solo loro, perché questo sanno farle bene, ma secondo me fanno anche un po' gli interessi di una politica europea seria, solo che poi di solito si trovano poi a sentirsi dire che sono cattivi perché nessuno li segue o comunque la maggioranza non li segue. Buongiorno anche a Tobias Piller. Buongiorno. Buongiorno. Adriana, si può dire che poi alla fine in sede di commissione, per quanto si può dire dal documento uscito dalla commissione, chi ha vinto per il momento? Il partito delle sanzioni discrezionali e il partito delle sanzioni più morbide, o un incrocio, sanzioni comunque più rigide e non troppo automatiche? No, direi che per ora ha vinto il partito tedesco. Con la commissione in questo momento, diciamo, c'è un allineamento sulla posizione tedesca. L'unica cosa che secondo me è stata un po' attenuata rispetto alle attese è che per quanto riguarda diciamo l'avvio della procedura antideficit eccessivo, che si continua a chiamare antideficit eccessivo ma in realtà riguarda il debito, in quel caso non ci sarà questo nuovo sistema della maggioranza rovesciata, bensì sarà una maggioranza a far scattare, naturalmente la procedura sarà una maggioranza normale, cioè la maggioranza attiva del Consiglio, mentre per quel che riguarda tutti i passi successivi di questa procedura, cioè nel caso in cui il Paese non si attenesse alle raccomandazioni, alle correzioni eccetera eccetera, varrà sempre il discorso della sanzione semiautomatica, cioè della maggioranza rovesciata, per poter bloccare la proposta della Commissione che altrimenti entra in vigore. Io capisco, diciamo, quello che tu dici nell'introduzione. È vero che se tu condizioni tutti i paesi non sbagliano, però voglio dire, io penso che dopo l'esperienza greca e alla luce della gestione dell'esperienza greca, forse diciamo una germanizzazione così violenta della cultura europea, che in fondo era cominciata con Maastricht, però era stata più dolce perché l'Europa non è tutta tedesca, ecco, forse una germanizzazione così spinta, io credo che non sia qualche cosa che l'Europa è pronta ad accettare, e che quindi io spero che questo patto sia rafforzato, perché va rafforzato, ma vada rafforzato con una serie di, come dire, di caveat, cioè che non diventi un patto leonino, perché altrimenti io penso che nel contesto economico attuale, con la conflittualità sociale che sale, e non è, diciamo, puro sindacalese, sono problemi reali dietro le piazze. Ieri Bruxelles era invasa da 100.000 persone, voglio dire, ma non è, insomma, cioè l'Europa è in sofferenza nelle sue masse, nel consenso all'Europa. Quindi io temo che un approccio così duro, rigido, leonino, sia un qualche cosa che alla lunga crea una spaccatura nell'euro e dell'euro. E questo penso che non sia nell'interesse di nessuno, men che meno della Germania. E penso che comunque in quel caso non sarà l'Italia a rompere, ma sarà la Francia, perché la Francia, diciamo, tace, anche se comincia a parlottare. Però io non credo che l'Europa, l'altra Europa, l'Europa del Mediterraneo, perché in definitiva è sempre quella, possa più di tanto abituarsi così violentemente a una cultura di questo tipo. Maastricht 10 anni l'hanno avviata nel pianeta tedesco e ne ha scoperto i vantaggi, però ne ha scoperto anche gli svantaggi. Quindi insomma, io trovo che un po' di prudenza non guasterebbe. Nella redazione su cui c'è stato il confronto all'interno della Commissione, un paese come l'Italia si troverebbe con il debito pubblico, che diventa l'aggregato a fianco del deficit, ma con maggiore importanza quanto più è grande il debito pubblico, su cui si accentra il controllo comune, con il debito pubblico che abbiamo noi, poiché ci sarebbe un impegno a diminuirlo di un ventesimo l'anno, per l'Italia, che ha il debito che sta intorno al 118% in termini di punti di PIL, questo significherebbe un bel taglio, diciamo, nella media di 3 punti l'anno. Questa è la mia personale opinione, e che questo obbligherebbe la politica a mettere mano a un set di provvedimenti, nuove dismissioni ben congegnate di patrimonio pubblico, passaggio a un sistema fiscale più proclive a pesare meno sul lavoro e impresa, in cambio cambio di un regime di transizione per salvare i saldi, fatto magari con una piccola patrimoniale. Insomma, quanto più noi abbiamo un vincolo da affrontare il debito pubblico, secondo me, tanto più siamo spinti a rimodificare i pesi di un sistema fiscale che altrimenti resta asintoticamente verso una pressione fiscale molto elevata, storicamente la più elevata, e oltretutto pesando sulla crescita. E il debito, per via della bassa crescita italiana, per quanto sia lesinante Giulio Tremonti, come si vede, resta inchiodato lì. Quindi questa è una delle maggiori preoccupazioni. Sul debito, Adriano, da quello che si vede nel confronto che poi ci sarà nell'Ecofin informale e alla fine fino al confronto politico in consiglio, cosa si può immaginare? Che è il partito filofrancese, quello in cui siamo anche noi, insomma, che avrà il maggior peso sul totale dei membri? Ma io credo che peserà, credo che la battaglia di Tremonti in qualche modo sia passata, perché proprio quello che dicevo prima, per far scattare la procedura antideficit eccessivo sul debito, si terrà conto anche del debito complessivo. Questo all'inizio non era così evidente, perlomeno nella proposta questo c'è, ed è probabile che i tedeschi tenderanno invece a spostare ad annacquarla, verso, diciamo, il criterio ortodosso di Maastricht. Però per ora la tesi italiana, che non è solo italiana, è anche francese, belga, eccetera, è stata accolta. Sicuramente il calo di un ventesimo per l'Italia sarà pesante, perché appunto tre punti, come dicevi tu, non sono niente, non sono poco. Voglio dire, la procedura scatterà se nel triennio precedente non sarà stata ridotta la percentuale, appunto, di tre punti all'anno, non necessariamente di tre punti, ma diciamo che si deve arrivare sopra l'8% grosso modo in tre anni. Questo significa che ci sarà da una parte un periodo di transizione prima dell'entrata in vigore di questa regola, si parla del 2014, e comunque sia, diciamo, lo scenario è questo. Ora, riusciranno i paesi mediterranei ad attenuarlo? Io non credo che più di tanto riusciranno a modificare, diciamo, la formula meccanicistica. Io penso che lavoreranno di più sul problema sanzioni, perché in fondo, cioè, il fatto di avere, come è stato in questi anni, una gabbia entro la quale muoversi, dei parametri del 3% per il deficit, eccetera, che sono stati bene o male rispettati finché si è potuto, è stato un vantaggio per tutti. Quello che io trovo da una parte comprensibile da un punto di vista teorico, ma che credo che sia difficile da applicare dal punto di vista pratico, è diciamo, questa idea delle sanzioni praticamente automatiche, perché è chiaro che usare la maggioranza rovesciata è molto difficile, per cui grosso modo quando la Commissione fa una proposta la sanzione scatta. Quindi, ecco, io credo che il fronte mediterraneo lavorerà piuttosto su questo fronte. Quindi sulla procedura del... è anche più ragionevole, perché nell'interesse di tutto è di sanare. Il problema è, appunto, non avere sul collo questa, come dire, questa pioggia di sanzioni che al di là di tutto rende l'Europa impopolare, arcigna, sgradevole. Quindi, cioè, non mi sembra come dire, un buon modo di venderla l'Europa all'opinione pubblica. Lo so, Adriana Certelli ci pone, insomma, tre ordini di problemi. Prima, è ovvio che l'automaticità dà meno margine e talvolta la durezza delle sanzioni tali che si spinge un paese in deflazione, insomma, la Grecia insegna. Secondo, è una maniera non molto popolare di venderla. Però terzo, c'è anche una questione che se i politici a livello nazionale hanno molta propensione a non metterli in ordine questi conti. E quindi io non lo so, io penso che l'Italia abbia bisogno di un supplemento di durezza, questo perché la prova storica di questa seconda repubblica di destra e sinistra mi fa dire questo, ma questa è la mia personale opinione. Adriana è molto più rigorosa nel fare una valutazione di quello che avviene o non avviene nel confronto europeo. Ha ragione anche su, diciamo, la necessità di tenersi un margine, perché poi di fronte a crisi molto dure come quelle che abbiamo alle spalle, effettivamente spingere paesi alla deflazione tostissima come per la Grecia, chiaro, hanno mentito, non lo all'ordine di 10 punti di PIL, però è ovvio che non hanno mettito i greci in quanto tale, che adesso ne pagano l'onere, ne pagano l'onere andando in deflazione, e quindi per quanto possano diminuire il deficit, comunque su un denominatore così in riduzione il totale del debito continua a salire, e quindi forse si andrà comunque a un rescheduling, a una ristrutturazione quantomeno degli interessi e delle scadenze del debito greco, perché questo dicono i mercati sotto l'effetto delle nuove pressioni da notizie irlandesi di queste settimane. Attenzione, la crisi dell'euro debito non è finita. Sentiamo però Tobias Piller, dal punto di vista tedesco, dal punto di vista del sistema Germania, perché invece l'impostazione a favore di sanzioni il più possibile automatiche e non discrezionali, e soprattutto consistenti, non sia nell'interesse non solo della Germania, che insomma è rigorista, ma anche di una concezione dell'Europa che non è quella in cui i tedeschi ci mettono al passo dell'oca, ma è quella che serve a rendere più competitiva, meno debole, meno nell'occhio della sfiducia dei mercati l'intera Europa. Eppure questa è un'impostazione che, come si vede, fatica a passare. Perché, Tobias? Beh, avevamo un sistema di Maastricht che era un po' più indolore come sanzioni, ma tutti si sono comportati male, inclusi i tedeschi, e così questo sistema di Maastricht con i criteri e sanzioni di Maastricht ha perso della credibilità. Allora bisogna o rafforzare quel sistema o fare meno della credibilità, perché il fondo, e così respingo un pochino l'idea che è tutta una tedeschizzazione, no? È una questione di economia. Così i tedeschi hanno forse più, sono più inclinati a comportarsi un pochino meglio oggi per non avere tanto le conseguenze cattive domani. Altri governi sono più deboli e vogliono più comportarsi un po' male oggi e non sfregarsi delle conseguenze di domani. Il problema di fondo è certamente quello che l'Italia, Francia e altri hanno voluto approfittare dei benefici dell'Unione Monetaria, dei benefici della stabilità di altri paesi, e così allora non possono così erodere così questi benefici, così comportarsi male, perché a un certo punto certamente la cosa si capovolge, e così non sono più che i paesi del sud che beneficiano ai benefici della stabilità, ma i paesi come la Germania che subiscono i svantaggi del mal comportamento degli italiani, francesi e così via, no? E questo a un certo punto si rovescia la medaglia, e poi è così la Germania e altri che si sono comportati relativamente meglio, solo relativamente, così subiscono così poi le conseguenze del mal comportamento degli altri. Mi sembra, come vedete, nell'impostazione di Tobias Piller c'è una visione di ciò che conviene al blocco comune, se vogliamo acquisire credibilità economica. Questa a me pare una considerazione che, di fronte al bilancio che c'è da trarre della crisi dell'eurodebito, che non è finito a mio giudizio, sia una posizione forte, per così dire. Oltretutto aggiungo la mia personale considerazione. All'Italia sarebbe convenuto, nella mia modestissima opinione, da una parte fare la battaglia che ha fatto Giulio Tremonti, che vi ha spiegato Adriano Cerretelli, per estendere gli aggregati del debito su cui farsi il conto, non solo debito pubblico, debito delle famiglie, debito delle imprese, debito delle imprese bancarie. Da una parte, che è più corretto, abbiamo capito che i mercati è vero che guardano all'aggregato più ampio, non è che solo ci convenga perché il debito delle famiglie italiane è più basso rispetto a quella media di tutti gli altri paesi, però secondo, io spiazzando tutti sarei andato nel campo tedesco, perché sono convinto che questo ci avrebbe anche un pochino levato dalla debolezza di fronte alla prossima partita che c'è davvero poi sullo scacchiere europeo, che è la guida della BCE. E la guida della BCE, la mia opinione è che il grande paese che ha la parte, diciamo, meno risanata degli attivi patrimoniali delle sue maggiori banche, cioè la Germania, non abbia questo diritto quesito alla guida della BCE, e quindi credo che per l'Italia sarebbe stato, oltre che complessivamente più saggio per sé e più saggio per la credibilità dell'Unione Europea, sarebbe stato anche più conveniente spiazzare i tedeschi su quella che vedrete sarà poi una battaglia che si animerà di qui alla fine dell'anno prossimo. Ora salutiamo Adriano Cerretelli ringraziandolo perché ci deve lasciare, e intanto andiamo in pubblicità. Buongiorno cari ascoltatori, rieccoci in studio, ci stiamo occupando delle nuove regole del patto di stabilità europeo, confronto che in commissione si è concluso con diciamo un compromesso per il momento su sanzioni rigide come vuole la parte d'Europa che fa capo, diciamo così, alla Germania, ma con una discrezionalità, quindi un margine politico sul voto per l'adozione iniziale delle procedure di infrazioni prima che scattino le sanzioni automatiche. Un ascoltatore hanno fatto correttamente notare che noi abbiamo parlato di un ritmo come sanzione di rientro del debito pubblico pari a un 20° l'anno, e con un debito che il 118% come il nostro, un 20° diventa più dell'8-9% di cui abbiamo parlato. Allora occorre distinguere: quella almeno 8% di riduzione del debito pubblico in 3 anni diventa, nella proposta della Commissione europea, il termine, la prova che bisogna dare. Se non lo si riduce nel treno di qualcosa tra l'8 e il 9%, io avevo parlato di un 3% anno, appunto si entra nella zona rossa in cui può iniziare la procedura di applicazione automatica delle sanzioni, e a quel punto bisogna fare nell'ordine di un 20°. Quindi nel nostro paese a quel punto diventerebbe non 8-9 punti in 3 anni, quindi 3% anno, ma diventerebbe, se avessimo ancora il 118%, molto di più, molti punti in più. Quindi questo è per chiarire bene come funziona questo meccanismo. Naturalmente bisogna vedere l'Ecofin che dirà, e quindi come alla fine uscirà questo set di regole dall'esame europeo. Ci ha chiamato, credo conferma se è in linea, sì, è in linea, Arrigo Levi, non c'è bisogno che lo presenti, grandissimo giornalista italiano, ci ha chiamato dal Quirinale, e quindi noi... Sono in linea. Eccoci qua, buongiorno Arrigo Levi, a lei, eccoci qua, ci dica. Mi dispiace perché non è nulla di vostra responsabilità, ma so che abbiamo riascoltato, sì, la signora Almirante ieri nella trasmissione per difendere il marito, ha detto che c'era un signore ebreo, anzi che aveva anche una cognata ebrea, cosa benemerita certamente, ma che non è... Stiamo parlando della famiglia di Giorgio Almirante. Sì, ecco, e poi diceva, ma poi c'era, ha detto una prima volta Enrico Levi, la seconda volta ha detto Arrigo Levi, sì, che veniva a casa, che eravamo amici di famiglia, eccetera. Questo non può dirlo, si è confusa, poveretta, sa forse l'età, non lo so. Non ho mai conosciuto Almirante, ne sono ben lieto, perché Almirante è stato uno degli iniziatori e responsabili nella Repubblica Sociale della campagna di arresti degli ebrei per consegnarli ai tedeschi, cioè per mandarli nei campi di concentramento e di sterminio. Quindi io francamente non ho mai in vita mia incontrato Almirante, ne sono ben lieto, e gradirei solo che si sapesse che Arrigo Levi, che insomma sono io, certo, e che sono un funzionario della Presidenza della Repubblica e che ho fatto una certa carriera giornalistica e scritto un numero di libri, l'ultimo l'intervista con il mio amico Ciampi, ecco, gradirei si dicesse che io non sono mai stato amico di Almirante, chiedo scusa. È questo, ma no, questo è il meno, perché in effetti, siccome abbiamo detto prima Enrico, poi Arrigo, e quindi poteva esserci un equivoco interpretativo, esatto. Di fronte all'equivoco io ringrazio invece Arrigo Levi per aver voluto chiamarci, così ce l'ha detto direttamente con la sua voce, e grazie molte, e oltretutto ad Arrigo un grande caloroso grazie per tutta la sua strepitosa carriera. Io non sto parlando solo di quella di funzionario pubblico con grande Presidente della Repubblica, sto parlando di quello che ha fatto come grande maestro di giornalismo italiano, con un occhio sempre attento appunto alle compatibilità internazionali del nostro paese. Grazie veramente ad Arrigo Levi per questa sua precisazione. Allora, torniamo al tema di oggi. Si è aggiunto tra i nostri esperti, insieme a Tobias Piller della Frankfurter Allgemein, con cui abbiamo sentito la perorazione calorosa delle sanzioni automatiche e delle sanzioni rigorose per fare lezione di quello che la crisi dell'eurodebito ci ha messo sotto gli occhi. I mercati non si fidano e continueranno a non fidarsi di un'Europa con queste regole discrezionali. Conviene a tutti essere più rigorosi, non è questione da latini di dire i tedeschi ci vogliono picchiettare sulle mani. Poi questo non significa che non bisogna essere rigorosi anche sui tedeschi, sulle cose tedesche, sulle banche tedesche, perché anche loro poi ci fanno pagare quello che non fanno a casa loro. Questa è la mia impostazione, perché molti ascoltatori dicono: ah, i tedeschi, attenzione, mettano il becco solo nelle cose di casa loro. Beh, l'Unione Europea non è costruita con questo criterio, se no era meglio non farla. Stefano Cingolani, editorialista del Foglio e di Panorama, si è aggiunto a noi in questa controversia, diciamo così, tra Adriana Ceretelli, che diceva meglio un pochino di discrezionalità, Tobias Piller e più modestamente sottoscritto, che diciamo rigidità e sanzioni serie. Cingolani, con la sua esperienza di osservatore, dove si mette? Ma io penso che questo dibattito tra austeri e lazzisti, viziosi e virtuosi, ci porti un po' fuori strada, perché io sono d'accordo sulle sanzioni, sono d'accordo con Alberto Alesina che no, da mesi scrive che attenzione l'austerità non è contro lo sviluppo ma è una premessa per lo sviluppo. Quello che bisogna capire però è dove va l'Unione Europea, cioè questa revisione del patto di stabilità, le sanzioni, il rigore, l'austerità ci portano dove? Questo è un grande punto interrogativo. L'Unione Europea sembra un po' mancare di una direzione. E per quanto riguarda la crisi e come affrontare la crisi, le regole dell'Unione Europea e anche questa revisione del patto di stabilità non affrontano quella che secondo me è la causa, una delle cause, ma forse la causa principale della crisi europea, che non è soltanto sulla colpa dei greci che hanno speso troppo e degli spagnoli che hanno speso troppo e male, ma è lo squilibrio di fondo che divide l'Unione Europea. Non c'è dubbio che in questi 10 anni noi abbiamo assistito a una divaricazione tra alcuni paesi, cioè la Germania e i paesi del nord, soprattutto la Germania, e buona parte degli altri paesi. Basta vedere dove erano 10 anni fa, nel 1999, come erano i conti esteri della Germania e come erano i conti esteri degli altri paesi e a che punto sono arrivati adesso. La Germania ha accumulato un avanzo nei confronti del resto del mondo enorme, un avanzo di bilancio dei pagamenti commerciali e di pagamenti entrambi, mentre gli altri paesi come l'Italia che erano insomma in leggero, più o meno quasi in pareggio se non sbaglio 10 anni fa, adesso sono in leggero disavanzo. La Spagna invece è dalla parte opposta di questo spettro. Allora se non si comincia a ragionare su come riequilibrare questi squilibri fondamentali, che sono gli squilibri che riguardano non solo le finanze pubbliche ma la struttura delle economie chiaramente, insomma, a questo punto allora secondo me non affrontiamo la instabilità intrinseca, la debolezza intrinseca della moneta unica, cioè di una moneta che una sola per tanti paesi che vanno in direzioni opposte. Naturalmente la risposta può essere se vogliamo un mercato unico, se vogliamo l'unificazione, se crediamo nonostante tutte le crisi eccetera nella logica del mercato, i capitali vanno laddove c'è una convenienza maggiore. Sicuramente la Germania ha saputo affrontare la crisi della propria industria, insomma cose che abbiamo sentito molte volte che hanno certamente un fondamento, questo è vero, tuttavia non va contro il discorso di fondo che se vogliamo una moneta unica abbiamo bisogno anche di affrontare insieme gli squilibri strutturali dei paesi, comunque dell'area economica che sottosta alla moneta. E quindi Stefano Cinguani ci richiama a uno dei dibattiti che è aperto all'interno dell'Europa e che poi vale tra Stati Uniti, Cina, il mondo eccetera, non, la crescita secondo il modello mercantile per cui tutti possono crescere solo con più export non è un meccanismo che valga per tutti, perché è un gioco in cui c'è qualche perdente oltre a grandi vincitori esportatori, e allora per riequilibrare c'è bisogno di impostazioni di politica condivise. Per riequilibrare significa creare più domanda interna anche nei paesi molto esportatori, cioè dare agio a chi altrimenti con la pura competitività nel breve tempo perde quote sul mercato internazionale a vantaggio di chi è più competitivo, in questo caso ovviamente i tedeschi, fare più domanda interna in maniera tale che gli altri paesi europei che hanno tra i 2/3 e addirittura i 4/5 taluni di export intraeuropeo su poter contare per la propria crescita di un mercato interno tedesco che tiri di più importazioni dal resto dei paesi europei. Sentiamo come la pensa Antonio da Torino su questo argomento. Prego Antonio. Sì, buongiorno Giannino, buongiorno signor, per i complimenti per le sue analisi che sono sempre molto interessanti. Io più che altro volevo fare una domanda, perché da italiano mi sono sempre, ovviamente, mi spavento sempre quando mi viene detto di qual è l'importo del debito pubblico italiano, un numero enorme, no? 118% del PIL o quant'altro. Ma Paul Krugman dice che tanto non è un problema, ci sono paesi come l'Italia che dimostrano all'America che si può vivere con grande debito pubblico. Paul Krugman non la penserebbe così, sto un po' paradossalizzando ma non troppo, però prego, l'ho interrotta. No, certo. Ecco, io quello che mi chiedo è come si fa a ridurlo, perché va benissimo che la comunità europea metta questo come uno dei punti importanti del patto di stabilità. Però se un altro punto importante, un punto del patto di stabilità è il permettere comunque un deficit di bilancio, il 3%, poi adesso è di più, tendenzialmente dovrebbe andare a ridursi, ma comunque la comunità europea nel patto di stabilità permette un deficit di bilancio. Io non capisco, forse se qualcosa mi sfugge, però se continuiamo a permettere agli stati dei deficit di bilancio. Bravo Antonio. No, noi all'Italia. Come facciamo a ridurre? Bravo. All'Italia, infatti, conviene adottare. Soltanto dire che vendiamo, non so, cosa vendiamo? Qualche caserma, qualche percentuale dell'euro. Ho capito. Da privatizzare ci sarebbe molto, a dire la verità, non è solo più qualche caserma, perché sennò qua dimentichiamo tutto quanto c'è ancora nelle mani pubbliche, ed è molta roba. Se uno guarda sul totale delle quotate italiane, moltissima roba, per come poi si è ristretto sulla capitalizzazione rispetto al reddito nazionale. Però Antonio, per questo forse ci conviene anche adottare la parte di regole interne tedesche, cioè quelle che mettono in costituzione il limite al deficit. I tedeschi se lo sono dati da solo questo limite, se lo sono imposti nella regola fondamentale costituzionale, senza badare a quello che deciderà l'Europa. Penso che a noi convenga proprio la stessa cosa. Aggiungo anche un limite al prelievo fiscale, perché così il risanamento del debito è obbligato, ed è obbligato con un minor prelievo e minore spesa pubblica in termini reali. Domanda: ma si può fare? Con la politica italiana vi dimostra sempre che non è possibile farlo, perché dice: ah, ma poi gli italiani protestano, ciascuno difende il suo. Grandi paesi hanno tagliato spesa pubblica e pressione fiscale di molti punti di PIL. Grazie a questi due vincoli tedeschi, la Germania lo ha fatto di quasi 6 punti di PIL di spesa e pressione fiscale. Non è poca roba, è tantissima roba, ed è così che si mette in moto poi una dinamica di maggior crescita del denominatore, che contribuisce a ridurre naturalmente il peso del debito pubblico, e soprattutto insegna alla politica che per fare meglio bisogna scegliere sul totale dell'allocazione della spesa reale, non lasciarla linearmente intatta o farne diminuire la progressione aggiuntiva come facciamo in Italia, dicendo che sono tagli. Non sono mai tagli, mai, sono pure palle che sono tagli, quelle di cui parliamo ogni volta, sono contenimenti rispetto alla dinamica incrementale aggiuntiva della spesa pubblica reale. Questo è ciò di cui si discute da sempre in Italia. Ci vogliono invece tagli reali, e per fare i tagli reali bisogna ridiscutere come si allocano le risorse per priorità. Questo è il punto, e allora vedrà che si potrà fare, caro Antonio. Però è la politica italiana sui nostri occhi in grado di fare quello? Quei numeri di ieri? Tutta questa eroica impresa di questi ultimi due mesi? Bah, io lascio giudicare voi, io ho veramente le scatole che fumano per quello che ho visto politicamente. Questo è un paese la cui classe politica del centrodestra, secondo me, si è messa nella totale irresponsabilità, e quindi vedremo dove ci porterà. Ora, l'informazione sulla circolazione stradale. Molti nostri ascoltatori sono dubbiosi del fatto che l'Italia possa fare la tedesca, molti mi dicono: ma ci abbiamo la Sicilia, la Campania, la Calabria. Beh, loro ci avevano solo 20 anni fa la Germania Est, dice, ma non c'era la mafia, però c'era stato un bel po' di comunismo, ragazzi, che non è che scherzasse dal punto di vista della depressione degli indici di produttività e competitività. Eppure in 20 anni la Germania, con queste regolette un po' più serie delle nostre, ha sanato gran parte del gap. È ancora aperta la questione tra est e ovest, ma gran parte del gap. Noi dopo 150 anni abbiamo il contributo delle regioni meridionali al PIL complessivo fermo al 23,8%, esattamente come nel 1951, questo dicono i dati di contabilità pubblica italiana. Vediamo un po' se ci conviene cambiare un po' le regole o se conviene solo sperare nei politici. Vi faccio un altro esempio: l'ex premier islandese, l'islandese che lasciò l'Islanda alla bancarotta, l'ex premier islandese si chiama Geir Hard, del partito indipendentista. Bene, c'è stato un voto al Parlamento di Reykjavik ieri, per 3 voti di differenza, con 33 voti favorevoli e 30 contrari, il Parlamento ha deciso di farlo giudicare dall'Alta Corte di Giustizia di fronte all'accusa di negligenza per aver lasciato il sistema finanziario al default nella parte pubblica e privata. Abbiamo qualche esempio, per caso, una storia italiana di qualche politico sottoposto a qualche procedura di questa proporzione e gravità? per averci regalato il debito pubblico? No, non ce l'abbiamo. E di questi esempi che secondo me vivono poi i paesi anche dal basso, aderendo con più facilità a regole in cui ci sono meno evasione, tutti rispettano le regole. Ecco, di questi esempi qua, che abitualmente in Italia siamo abituati a respingere dicendo ah, ma questi sono i nordici, sono i luterani calvinisti cattivi, però intendiamoci, poi non ci lamentiamo. Allora, la domanda che faccio a Tobias Piller è: Adriana Cerretelli si aspetta che alla fine dell'esame politico nell'Ecofin e poi il Consiglio europeo, in buona sostanza il più dell'impianto proposto dai tedeschi resti, tranne la discrezionalità, quindi con un voto politico nelle procedure di adozione della procedura di infrazione. Naturalmente periodo di transizione però lungo. In Germania come si valuta tutto questo? Lo si guarda con disattenzione dicendo tanto noi abbiamo regole aggiuntive, quelle sulla spesa pubblica e il fisco, oppure a chi obietta, come faceva Stefano Cingolani, però è nell'interesse anche dei tedeschi probabilmente riequilibrare il proprio modello di crescita e sostenere di più la domanda interna, questo motivo è tra quelli che poi hanno spinto al ribasso la Merkel nei sondaggi, oppure no, sono tutte altre ragioni? La Merkel con il suo comportamento a salvare la Grecia certamente ha fatto delle cose molto molto impopolari. In generale l'impianto dell'unione monetaria e poi anche questi meccanismi di salvataggio di paesi, così con quel mega fondo di 500 miliardi di euro, certamente in qualche modo sono una tentazione, un invito a comportarsi ancora peggio, perché qualcuno potrebbe anche dire allora se mi comporto male qualcuno poi arriverà a salvarmi. O poi facciamo un passo indietro. Il punto è quello che quando un paese ha molta spesa pubblica, molto deficit, certamente avrà anche molta inflazione e anche svalutazione e a lungo termine una instabilità, perché nessuno investe, cresce poco. E questo certamente in un'Unione Europea per un po', se uno che si comporta male si può anche comportare male e gode ancora di una valuta stabile che non si svaluta, un'inflazione bassa e così via. E in quel senso le regole di Maastricht o poi altre regole forse più forti dovevano poi andare incontro a questo pericolo, perché altrimenti, come detto, tutti subiscono questo problema. E i tedeschi al momento dicono ma vedete gli italiani che ancora non hanno cambiato. Per me l'indicatore è un indicatore importante è quello. Nelle ultime 20 anni, quando l'economia è andata bene, l'Italia ha mai abbassato il deficit veramente sensibilmente sotto 3 o sotto 2%? Mi sembra di no. No. Ci sono stati anni come nel 2000, quando il governo Amato di allora ha detto vabbè, anzi non dobbiamo fare un taglio, possiamo spendere di più, e poi non è stato vero perché l'economia si è abbassata e c'è stato il famoso buco. E in quel senso anche nel 2008 l'economia è andata relativamente bene, la Germania ha fatto deficit 0, l'Italia ha fatto un deficit di 3. E poi certamente se uno in un peggioramento dell'economia poi parte da un deficit di 3, certamente arriva anche a 7-8% di deficit, mentre quando uno parte da 0 certamente può anche spendere un pochino di più, spendere per ammortizzatori sociali e non fa saltare il conto. Un ultimo punto, fatemi passare un po' una visione anche pessimista. Così un'Italia che non vuole mettere a posto i conti, un'Italia con un debito di quasi 120% e cresce di 1%, fa un deficit di 3%, vuol dire il debito cresce sempre di più, poi con governi deboli che non fanno delle riforme, forse un passo indietro, così il sistema politico ancora va indietro con una proporzionale che porta alla Prima Repubblica. Dio non voglia, ma sta nelle cose che quello che dice Piller. Allora? A un certo punto potremmo anche immaginarci il prossimo giugno il salto dei mercati internazionali all'Italia e poi la Germania esce dall'Unione Europea. Bravo Tobias, e io lì volevo arrivare. C'è tutto questo nella consapevolezza dei politici che avete ascoltato ieri in Parlamento? La mia risposta è netta: no, non c'è. Boh, pensateci bene, italiani in ascolto, pensateci bene, perché secondo me inizia a essere tempo di una roba che si chiama PIL, un nuovo partito che si chiama Prodotto Interno Lordo, e che prende le migliori pratiche dalla Germania e diventano quattro punte. Chi ci sta, ci sta. Io penso che la cosa riguardi anche molto i lettori leghisti qua al nord, nell'età produttiva. Io non sono così convinto che siano granitici a difendere tutto questo e convinti. È vero, i mercati possono risaltare, l'Italia finisce di nuovo nel calderone, e cosa ci facciamo a quel punto? Ci divertiamo a parlare di se sono i 35 o 36 le nuove formazioni? Pensiamoci bene. Io ringrazio Stefano Cinquani, che ho fatto parlare un po' troppo poco, e Tobias Piller, che ho un pochino utilizzato, devo dire con una certa attenzione, perché sapevo che ci avrebbe portato a questo. La crisi nuova, una fase crisi nuova dell'euromercato è dietro l'angolo, è possibile. Con questo deficit politico di responsabilità, l'Italia rischia di rifinire esattamente in mezzo alla lista dei paesi deficitari, malgrado la lesina opportuna e giusta di Giulio Tremonti. Nel documento presentato ieri dal governo, quello che sostituisce il DPF, la decisione di politica finanziaria di ieri, come vedrete il deficit pubblico resta molto elevato, come sul 5%, il debito pubblico resta molto elevato, e state attenti, perché a quel punto la Germania saluta l'euro e buonanotte, e a quel punto chi non segue il paese virtuoso non crederà di avere sconti. Questo è il mio timore, pensateci bene. Si chiama PIL la formazione politica alla quale penso io. Grazie anche ad Adriana Cerretelli, e grazie a regia Peter Bescapè, a Franco Piantanida, assistente alla diretta, a Alessandro Marco Turli, in redazione, Linea Giornale Radio. Appuntamento a domani.